L'autobiografia è l'arte della scrittura della propria vita. Si lavora sui ricordi, le emozioni, i fatti, i personaggi e i periodi della nostra vita, su temi come amore, gioco, fragilità e risorse. Si scrive per non dimenticare, per capire ciò che ci accade, per dare ordine alla materia confusa della vita, per riattraversare in modo creativo ciò che abbiamo vissuto. Grazie a questo impariamo da noi stessi, ci diamo valore, scopriamo di essere capaci di fare.